l'imputato è l'imputato per tanti gravi delitti dei quali sono innocente e colpevole in base ai ruoli che rivesto, perché le invettive ai professori universitari non sono di oggi e ieri sono riecheggiate, e ahimè sono professore universitario. Ma come se essere professore universitario non bastasse, per un supplemento di ignominia sono anche leggista, per usare la dizione dei nostri antichi. E se proprio anche questo non bastasse, un buon posto all'inferno mi è assicurato, perché da un certo numero di anni mi dedico alla storia del diritto italiano. Se procediamo per gradi, come vedete, ignominia si somma ignominia, ed è con un casto rossore che prendo la parola fra voi. Vi farò perdonare queste colpe innumerevoli che ho, cercando di essere rapido, di non tediarvi troppo, di non costringere i nostri gentili moderatori a passar con l'occhio dal quadrante dell'orologio al numero dei fogli che io ho dinanzi. Ne ho uno solo per precisione, quindi andrò improvvisando, che renderà più difficile al traduttore inseguirmi, ma ponendo in essere un certo disordine concettuale renderà più facile a chi volesse farmi delle domande e fosse timido di vincere la timidezza e fare le domande. Il motivo per il quale io mi sono interessato dei problemi dei quali si discute qui oggi non rientra nella biografia del tutto indifferente di uno dei tanti giuristi del XX secolo. Rientra in qualche cosa che è bene dire subito qui. I giuristi della mia generazione vengono da un liceo classico e hanno appreso, quando erano ancora giovani e quindi ingenui, che il 600 è un secolo morto, che la letteratura non vale niente, che solo, come diceva Croce riecheggiando Muratori, negli ultimi 30 anni del 600 si respira un'aria nuova. Il perché di Muratori e il perché di Croce sono esattamente identici: si allenta la presenza spagnola in Italia e pare che si cominci a rinascere, perché gli spagnoli o sono già in fase di mezzo crollo oppure dedicano minore attenzione alle vicende italiane. Checché ne sia di ciò, se poi questo giudizio storiografico sia da accettarsi o no è altro problema, e dico subito che non lo accetto, resta il fatto che nello studente liceale di 16 anni questo tipo di nozione si imprime, e si imprime anche perché gli capita di leggere un predecessore dell'amico Raimondi che inaugura una conferenza dedicata al 600 dicendo: nominanza non buona. Facciamo conto che sia un pontefice, in realtà non lo era, e indichiamo dalle prime parole il testo del suo dire. Era Carducci, per chi non avesse sotto gli occhi questi testi. Quando poi si va all'università, si imbatte nei manuali della disciplina della quale, ahimè e ahimè, sono professore, e si scopre che anche lì il 600 è un periodo di profonda stasi. Non c'è più fantasia, non c'è più l'inventiva. Pare che di botto il tasso di intelligenza sia crollato e, anziché stare in un mondo civile, si sia andati a finire in un ricovero per subnormali. Che queste spaccature a periodi abbiano un senso o no, è inutile dire a chi fa di professione la storia. Ho voluto semplicemente richiamare tutti alla necessità di farci un lavaggio del cervello, perché ciò che è sedimentato in noi di una serie di manuali nei quali, guarda caso, affiorava il sudate fuochi, affiorava è del poeta in fila meraviglia, queste almeno sono le cose che rimangono impresse nella mente, io le ho studiate 30 anni fa, quindi mi è rimasto poco. Questa sedimentazione è particolarmente violenta ed è difficile liberarsi, ed è, secondo me, profondamente errata. Di qui credo che sia abbastanza chiarito perché io ho lontano interesse per questo tipo di indagini, fosse un interesse preordinato a cercare di capire cosa ci fosse di vero e cosa ci fosse di falso in una rappresentazione che per lo stesso modo col quale era formulata appariva contrastante non con la dottrina ma col comune buon senso. Quando poi si arriva a parlare del Cinquecento, i manuali della mia disciplina enunciano disjuncting una serie di fatti che non vengono mai congiunti, come se fossero dispersi, ognuno per conto suo. Non vi dico i più importanti, la riforma protestante per esempio, quella la conoscete tutti, ma vi dico quelli che facilmente non conoscete. C'è una riforma del diritto penale, che non trapassa nell'insegnamento, è una riforma della dottrina del diritto penale, che si sgancia dal diritto civile e diventa il diritto criminale, il diritto cioè della repressione, organizzata da parte dello Stato, dei delitti che pongono in pericolo la vita collettiva. C'è una riforma, se così si può dire, o un'espansione del diritto commerciale, che anch'esso si sgancia dal diritto civile, si sgancia dal diritto romano per motivi di necessità, perché va da sé che la cambiale i romani non la conoscevano, e va ugualmente da sé che il contratto d'assicurazione i romani non lo conoscevano, e che perciò per quanti equilibrismi si facessero nel trattare o maltrattare le fonti giustinianee, attraverso di esse ben difficilmente si arrivava a quello che i mercanti, gli uomini, chiedevano, e cioè un regolamento abbastanza certo e abbastanza equo dei rapporti che andavano ponendo in essere. Nasce anche lo Stato moderno, si inventa la sovranità. La sua proiezione sarebbe quello che noi chiamiamo il diritto pubblico, ma lo chiamiamo diritto pubblico dopo che la dottrina tedesca del secolo scorso ha provveduto a fornirci una nozione. Prima si chiamavano iura maiestatica o cose di questo genere. Nasce anche la scuola dei culti, e qui gli amici storico-giuridici sanno di che si tratta, gli altri forse non lo sanno, basterà ricordare che nel Cinquecento operano in Italia Alciato e Cuiaggio. Il fenomeno non è solo italiano, è il fenomeno di trasposizione nel mondo del diritto di quella operazione che Erasmo aveva fatto nei testi sacri, la congiunzione cioè del corpus iuris con la storia, per cercare di meglio valutarne la portata. L'operazione è pericolosissima, comporta una serie di rischi non dissimili da quelli che la teologia deve affrontare, e anche questo pone una pesante ipoteca sulle spalle dei giuristi, ai quali il terreno sta cambiando sotto i piedi. Ma se ci fermiamo sempre al Cinquecento, chi abbia una qualche pratica di cataloghi delle nostre biblioteche ricorderà di essersi imbattuto, anche se non li cercava, in opere strane che hanno per titolo nuovi statuti, nuove costituzioni e via di questo passo. Lo Stato moderno comincia col dare un certo riassetto alla legislazione. Che si tratti di Emanuele Filiberto, del Farnese, del Cardinale Legato, delle nuove costruzioni milanesi, cambia poco. C'è anche un rinnovamento della legislazione. Se a questo punto il povero giurista ha poco tempo per dedicarsi alle accademie, o se non manifesta una grande invenzione, credo che non sia possibile fargli colpa, perché tutti i termini del problema sono radicalmente cambiati nello spazio di 50 anni. Della cultura vecchia si dice che non serve più, sono gli innovatori i quali propongono modelli nuovi, ma la cultura vecchia può non servire più o servire di meno, anche perché sono cambiati gli indici di riferimento. Raimondi citava ieri, con riferimento al Cinquecento, il nascere dei ruoli sociali. Era una delle tante intuizioni raimondiane, perché gli è venuto fuori in un discorso appassionato, che quindi rappresenta uno spontaneismo. Ora, come al solito, ci ha imbroccato. C'è un nascere dei ruoli sociali. Io però vorrei fare due osservazioni. La prima, non nasce ancora il diritto d'autore, il concetto cioè, e qui ci ritorneremo, della paternità delle opere dell'ingegno. Prima manifestazione, forse, del diritto d'autore abbiamo in un canonista padovano, Giovanni d'Andrea, quale, commentando lo Speculum del Durante, annota, qui ha copiato da Tizio, qui ha copiato da Caio, eccetera, eccetera, ma annota, non censura. Pochino più in là, forse si andrà nel 500, ma ho qualche dubbio, perché in una stampa cinquecentesca che ho di alcune operette giuridiche, gli autori sono sei e all'operetta di ognuno è premesso il ritratto, in una delle solite incisioni dell'epoca. Però il tipografo, pur avendo sei autori, aveva solo tre ritratti. E allora ha adottato quei tre ritratti per uno e per l'altro, per uno e per l'altro, perché di questo passo. Il che vuol dire che il diritto all'immagine, il diritto all'identità dell'autore, questa caratterizzazione in senso personalistico di quello che noi siamo, non c'è ancora e stenta a nascere. Non siamo più al tempo in cui gli stazionari bolognesi sommano disinvoltamente le lezioni mie e quelle del mio collega, anche se esse fanno a pugni, perché devono vendere un corso completo di lezioni, ma non siamo ancora nel momento in cui la mia sigla è depositata presso una società degli autori che provvede, o dovrebbe provvedere, a tutelare i miei interessi. I professori hanno però un'identità, e qui è un aspetto sul quale tre parole bastano, cerco di essere rapido, perché guardate che se volete pagare un debito che avete senza saperlo, voi dovreste leggervi il libricino di un giurista francese, Tiraquellus, che ha scritto un libro De nobilitate. Il debito l'avete perché i bisticci giuridici che sono nel Gargantuan provengono da lui. Quindi, se ci avete fatto una risata, penso che abbiate il dovere. E anche il libricino è abbastanza interessante. Si dice apertamente, quello che nei giuristi è detto, che il professore universitario è conte. De nobilitate legentium in studiis generalibus. Applicando questa massima indiscussa, non può essere discussa anche perché coloro che dovrebbero discuterla sono coloro che diventano conti grazie a questa massima, applicando tutto questo, l'amico Raimondi, ben per lui, in quanto doctor bonomiensis e anche comes, e mi spiace per Vasoli, non gli posso attribuire analogo titolo perché il suo Ateneo è un pochino più giovane. So che sarà rattristato per l'eternità a questa mancanza, ma non posso farci nulla. Ma non crediate che sia solamente il ceto dei giuristi che vuole nobilitarsi, anche se dietro questo dichiararsi nobili, che può sembrarci frivolo, teniamo sempre presente che c'è un apparato di esenzioni, di privilegi, di prerogative, di denaro, di potere. C'è l'accesso a cariche pubbliche, c'è l'accesso a prebende, c'è l'accesso nella chiusura oligarchica delle nostre repubbliche agli organi di potere, municipali, statali. C'è una serie di condizioni per le quali il comes Raimundus del tempo era molto contento di essere comes. Ma non è solo questo il caso, perché Francesco I, in un momento in cui evidentemente non sapeva cosa fare, nel 1533 dichiarò nobili, non conti, nobiltà semplice, tutti gli studenti. Visto sotto questo aspetto, forse si potrà riprendere, ma non è questa la sede, quel famoso aneddoto che vuole Carlo V all'incontro di Bologna, pigliarsi a scappellotti tutti, dicendo todos caballeros, è probabile che lo fossero già, che fossero studenti in quanto tali. Non credo che il maniscalco o il falegname potesse accedere alla presenza dell'imperatore ed esserne decorato con uno scappellotto. Tutto è possibile, io non c'ero, quindi non prendo l'impegno. Nel 500 c'è anche una riforma dell'università, riforma meramente esteriore che la sottopone maggiormente al potere del principe. Si parla, ne ha parlato Marongiu, di un protezionismo scolastico, ma che in definitiva non modifica i piani di studio, non inserisce altre materie, non modifica in niente l'assetto. Si dice che questo è fatto perché l'università è in crisi. Ora, io ho leggiucchiato qualche cosa in questi anni su questo tema e sarei molto grato al collega più colto di me che mi spiegasse quando mai l'università non è stata in crisi. Su questo sarei molto contento perché ancora non l'ho trovato. E siccome fra una facezia e l'altra prova a intrattenervi, sarà bene che vi ricordi, e qui mi spiace per Raimondi Bolognesi, ma la verità passa avanti all'amicizia per Raimondi, che al tempo d'Accursio, il momento cioè del massimo splendore di Bologna, si discuteva, e non era un caso finto, un caso di scuola, se commettesse il reato di usura quel professore il quale prestasse denaro agli studenti chiedendo come corrispettivo non un tasso di interesse, ma la loro frequenza alle lezioni. Il che vorrebbe dire che per incoraggiarli a frequentare, dato l'assenteismo abituale, occorresse pagarli. Io spero che non siamo ancora ridotti a questo punto, non escludo però che in futuro ci riservi queste ed altre cose. La massima, che è dei giuristi, passa pari pari pari e la ritrova in un certo Mendo, uno spagnolo, che dà anche la bibliografia, che ha fatto nel 600, se non ricordo male, una grossa opera sul diritto universitario. Quindi, cauti nel parlare di riforma dell'università, di crisi dell'università, ne ho parlato anch'io, posso anche fare ammenda, cauti perché occorre andare a vedere in cosa consiste questa crisi e che rapporto hanno le accademie con essa, se cioè c'è un nesso diretto. Vediamo un po', noi abbiamo due schemi possibili. Il primo è quello bolognese, di università come associazione che nasce dal basso. Il secondo è quello che potrei dire napoletano per comodità, di università che nasce dall'alto, potrei dire anche Parigi, sarebbe lo stesso, non cambierebbe nulla, cambierebbe, sposterebbe leggermente. Ma potrei citare tutte le università tedesche dell'età moderna che nascono per volere del principe. Il principe a un certo punto decide che occorre fare un'università e la costruisce. A questo schema, forse per la scarsa fantasia dei giuristi in genere, degli storici del diritto in specie e mia in particolar modo, a questo schema mi sono attenuto quando ho provato a classificare le accademie. Pensando cioè che le accademie che nascono per potere del principe in momenti di stato assoluto sono null'altro che una raccolta di pubblici funzionari, sono cioè una articolazione dello Stato. Non c'è grande differenza, state attenti, sotto il profilo concettuale, fra quel funzionario dello Stato che fa il curatore dei musei, il bibliotecario, o tiene lezioni, e quell'altro che fa l'intendente provinciale, che riscuote le imposte, che ripara le strade, e via di questo passo. Mentre c'è, ed è grossa, a differenza concettuale, con un mondo di associazioni che nascono spontaneamente e che spontaneamente si pongono norme. In un altro termine, noi abbiamo tutti dinanzi agli occhi il problema degli intellettuali al potere. No, vari esempi, e c'è una dottrina che ci ha indotto anche quelli di noi che non si erano posti il problema, a provare a prendere in esame la realtà sotto questo punto di vista. Ora, nell'azione di chiunque di noi si rivelano le sue concezioni, ma mentre nella mia azione, in quanto pubblico funzionario, perché in me lo sono, c'è una serie di limiti immanenti che io non posso violare, nella mia azione, in quanto conversatore qui, trapela la vera natura, ciò che io credo che sia il diritto, la concezione che io ho dei rapporti sociali, dei rapporti fra uomini, del come devono instaurarsi, del come devono porsi. In altri termini, se il principe Cesi, in quanto principe, doveva parlare, non poteva sottrarsi a una logica di gruppo, a una logica di potere, alla sua appartenenza alle alte gerarchie della Chiesa. Ma se, eventualmente cambiando nome, con un nuovo battesimo, prendeva parte a un'accademia, in essa svelava la sua vera concezione del diritto, non quella simulata. Parlo di simulazione con tutte le varianti delle quali si diceva ieri. In realtà, vedete, il Beccaria che va al potere, per fare un esempio, italo-austriaco, vorrebbe fare tante belle cose, ma non le può fare, perché il grano arriva dall'estero, perché il sistema delle alleanze non si può toccare, e via di questo passo. La sua vera volontà riformatrice trapela negli scritti, quando non ha ancora alcuna autorità. E forse questo è il dilemma dell'intellettuale nei confronti del potere, perché riusciamo a dire quello che pensiamo solo quando siamo emarginati, solo quando non contiamo nulla. Nel momento in cui una briciola qualunque di potere venga a cadere per volere del fato sulla nostra testa, da essa finiamo con l'essere condizionati. E questo spiega il perché. Questo spiega il perché, mentre in quell'articolo che alcuni colleghi hanno avuto la bontà di citare, io parlassi in generale di tutte le accademie, quando poi si parlò dei Lincei, io dicessi che li conoscevo poco e male, che quell'articolo era l'introduzione a un libro, che come spesso avviene ai professori, io non sono ancora riuscito a scrivere del tutto. E nella introduzione mi serviva classificare una vasta serie di fenomeni affinché fosse chiaro al lettore, nei capitoli successivi, che sono tutt'oggi inediti, fosse chiaro al lettore il perché di certe cose mi ero occupato e di certe altre no. Fedele alla vecchia massima che un libro è come un minestrone e, come sapete, il minestrone è a ricetta variabile. Qui si mette un concetto, qui se ne mette un'altra, non c'è una regola aurea per fare il minestrone, almeno io non la conosco, e anche i libri seguono la stessa variante. Allora, cos'è avvenuto a questi poveri giuristi? Una prima osservazione. Noi siamo, da una convinzione popolare diffusa, accomunati ai teologi e ai medici, e in qualche diseria tutto questo è affiorato anche ieri. Dal fenomeno accademico si dice giuristi, teologi e medici sono in gran parte esclusi. Cominciamo a eliminare quelli che non fanno parte del mestiere. Per i teologi mi pare che l'operazione sia abbastanza ovvia. Il non si discuta di teologia nelle accademie se risponde a un detto diffuso quanto forse blasfemo, parum de Deo, nihil de principe, ove Dio evidentemente conta qualcosa in meno del principe, ma risponde anche ad una situazione di lacerazione della coscienza religiosa italiana tra 5 e 600 ed anche a 700, che non siamo ancora riusciti a misurare complessivamente, che in una certa fase c'è la riforma protestante e sappiamo le accademie chiuse per sospetto di eresia, soppressioni napoletane sono in gran parte legate a eresie, ma non solo quelle, anche una parte in Toscana sono cenacoli di eretici. Nel 600 c'è l'altra grossa questione. Noi sappiamo che nella crisi d'Arcadia gioca un ruolo il Sergardi, gioca un ruolo il giansenismo, ma lo stesso Quondam, che è il massimo studioso di queste cose, non è arrivato ancora in fondo, perché il Sergardi è figura enigmatica, perché molte delle cose che scrive le scrive con uno pseudonimo che non è il suo nome arcadico, è un altro pseudonimo, Settano. Poiché la sua satira è brillante, ci sono anche delle false satire che vanno col suo nome, per cui è un tale guazzabuglio che riuscire a capirci qualche cosa è veramente difficile. Se poi la teologia si prende in chiave storica, beh, ci sono altri pericoli, quelli che enunciavo conversando con gli amici e che probabilmente giustificano la vicenda tedesca della quale si sono occupati i colleghi che mi hanno preceduto. E fare la storia della teologia vuol dire correre una serie di pericoli, vuol dire scoprire che un certo santo non è mai esistito, che certi martiri non ci sono mai stati. Ora stiamo attenti, perché nella cultura europea il pamphlet di Calvino, che con satira da ragioniere si era messo a contare le orecchie di Santa Genoveffa, scoprendo che erano almeno 4, o il Metatarso, altro santo, scoprendo che ce n'erano una dozzina diffuse per le varie chiese, questa satira circolava fra le persone colte. Non è che la si ignorasse nel clima stanco, conformista, cominformista, come volete voi, controriformista. Queste cose circolavano, la gente lo sapeva, che scavando e comparando, portando in luce gli elementi e comparandoli fra loro, che poi quello che fa abitualmente la scienza, venivano fuori una bella serie di contraddizioni. E ricordiamoci che la Santa Sede, con molta cautela, ha espunto dal catalogo dei santi due santi molto popolari come San Gennaro e San Giorgio solo in anni recenti e non senza qualche reazione. Ora, le reazioni di un mondo largamente desacralizzato possono farci capire quali sarebbero state in un mondo largamente sacralizzato. C'è un problema di responsabilità nei confronti della coscienza dei fedeli da non indurre in tentennamenti, che indubbiamente gravava. E quindi mi pare che fosse opera di normale buonsenso quella di dire ai teologhi, per cortesia, non vengano a lavorare qui, facciano le loro cose altrove, non cominciamo a discutere. Per quanto riguarda i medici, la cosa è molto più banale. C'era forse una crisi universitaria anche per loro, però cerchiamo di tenere presente che la storia del diritto è una storia di divieti, è una storia per cui la stessa operazione, se compiuta da me, è vilipendio di cadavere, se compiuta dall'amico anatomopatologo, invece è una normale dissezione anatomica. I medici non potevano sezionare cadaveri sul tavolo di cucina o nemmeno in queste confortevoli aule, dovevano per forza restare entro l'università se volevano maneggiare il cadavere e con tutti i divieti, i limiti e le sanzioni che la legge del tempo prevedeva. Di conseguenza, cosa avrebbero potuto fare nelle accademie? Avrebbero potuto, come il Redi, far sonetti, ma morti al sonetto si dice, e non posso per motivi corporativi, per il fatto cioè che il sonetto l'ha inventato un leggista, Jacopo D'Alentini, difendere il sonetto a oltranza, ce ne sono di buoni e di cattivi, casomai il problema che si porrà sarà quello di sapere se questi sonetti erano tanto brutti, e qui è l'amico Raimondi deputato a dare un giudizio in quanto critico estetico, se erano tanto brutti, perché mai, ripeto, personaggi come Redi, Magliabechi, Malpighi e compagnia perdessero tempo ad andare a recitare brutti sonetti. Ad Pompam, beh, è un po' debole come motivazione. Si tratta di personaggi che hanno rapporti internazionali piuttosto grossi e credo che non vadano a infilarsi in piccoli, ristretti cerchi dove poi si fanno sonetti di cattiva fattura. È comunque un tema che, sul quale non vorrei entrare. Ma qualche cosa va detto, che nell'Accademia c'è un ufficio di intellettuale collettivo sul quale non si riflette abbastanza. Ieri un collega tedesco, in questo momento mi scappa il nome, ha fatto a Olmi una domanda cattivissima, perché gli ha chiesto quale ricerca facessero i lincei. Ora, Olmi ha risposto ovviamente, io non so quale ricerca abbiano fatto i lincei, in quanto, come vi ho detto, i lincei li ho lasciati da parte, dato una scorsa naturalmente, ma non li ho approfonditi, però potrei rispondere per tutte le altre accademie italiane. Quale ricerca hanno fatto? È ovvio. Tutte le volte che trovate un libro il cui autore sottoscrive accademico gelato, accademico ozioso, accademico insipido o quel che volete, questo libro è passato al vaglio della cerchia degli accademici, quali lo hanno approvato e lo hanno modificato. In qualche caso ne abbiamo addirittura la prova. In altri la prova non c'è. Sappiamo però che la norma c'era, che imponeva che stampasse qualcosa, indicando la sua qualifica accademica, di sottoporre al vaglio e accettare le critiche, accettare le varianti. In questo caso, quando cioè manchi la prova, qui bisogna ricorrere agli amici italianisti, che pazientemente cominciano a fare assaggi di stile, e attraverso questo probabilmente ricostruiremo le varianti. Ma pensate che ancora nel Settecento un uomo come Muratori, che non era proprio l'ultimo venuto, cambiava il titolo di un suo libro e ne cambiava un intero capitolo, e il libro era importante, quello sulla poesia, per suggerimento di Crescimbeni e Fontanini, ai quali aveva inviato in visione il manoscritto. Il manoscritto. Scattano ogni tanto queste cose improvvisate. Di anacronismo. È quindi un costume diffuso e che garantisce degli standard di qualità. Tutto il discorso dell'autorizzamento che va fatto, secondo me, ha visto anche in questa chiave. Nella chiave, cioè, della garanzia di un livello medio della produzione. Perché sarà un caso, ma state attenti, che è lo stesso periodo nel quale sono furiosamente impegnati nella polemica fra antichi e moderni. E in questa specie di difesa, che poi diventa una polemica nazionalistica, sulla poesia italiana, la poesia francese, sul teatro italiano o quello francese, questo tipo di polemica impone, se si vuole essere pari al compito, un certo livellamento. Sarà un livellamento verso il basso. Io non credo che Redi abbia mai fatto leggere a qualcuno le cose che scriveva. E non ci credo per un motivo, che allorché uno sia membro di tante accademie, come fa ad accettare la variante alfa che gli propone l'Accademia 1, poi la variante beta che gli propone l'Accademia 2, poi la variante eccetera eccetera, a un certo punto avrà in mano un guazzabuglio nel quale lui stesso non capirà niente. Dal fatto che io deliberatamente non abbia più un testo scritto, ma abbia un canovaccio, e credo che sia abbastanza chiaro a quale mondo vanno le mie simpatie, anche se mi rendo conto che questo andare avanti a balzi, a strappi, secondo che le cose mi vengono in mente, sembra fatta apposta, e non lo è, per mettere nei guai l'amico traduttore, che infatti vedo che cerca di seguirmi, cercando di intuire il dove andrò a finire. Il panorama, ripeto, è vario, e qualche altra cosa va detta sempre per restare su questo tema di Accademia Università. Noi abbiamo l'idea di una università, e quando questo diciamo, ripetiamo senza saperlo il titolo di un libro del Cardinale Newman, proprio che ha questo titolo, Idea dell'Università. È forse un po' antistorico trattare, parlando di Idea dell'Università, vediamo di precedenti al Cardinale Newman, non perché non ce ne fosse un concetto dell'università evidentemente, ma perché forse non lo si teorizzava. Ora, la varietà delle situazioni locali svela alcuni punti chiari. L'università nel mondo antico, o meglio lo studium, è una corporazione investita di un pubblico servizio. Quando Le Goff parla di polizia alludendo alla Sorbona, dice una cosa esatta, perché la Sorbona aveva il monopolio della censura, ma dice solo una mezza verità, che potrebbe anche andare più avanti e parlare di una Sorbona portalettere, perché per consentire alla Sorbona di sopravvivere si era dato in appalto il servizio postale. Ma state attenti che non sono fenomeni solo francesi, che quando l'Accademia degli Umidi diventa Accademia Fiorentina, ci si precipita a darle che cosa? Il monopolio della censura, perché ad essa si trasferiscono tutti i diritti delle prerogative che spettavano al rettore dell'università, che viene esonerato da questi conti per darlo all'Accademia. È chiaro che abbiamo a che fare in questi casi con una articolazione, come dicevo prima, della pubblica amministrazione. O se preferite, dato che è un mondo pieno di corporazioni, o una corporazione investita da un pubblico servizio. Va da sé che la formazione del mondo moderno vede un sempre maggiore incremento del pubblico funzionario e una sempre maggiore riduzione delle corporazioni. Considerate uno strumento che riduce o impedisce l'esplicarsi del potere assoluto del sovrano. Al sovrano danno un gran fastidio gli stati, le corporazioni, sono enti che limitano il suo potere, gli piaccia o no, coi quali deve fare i conti e che vorrebbe sopprimere. Qualcuno ci riesce, qualche altro no. Ma corporazione sempre è. E questo potrebbe spiegare, potrebbe dare una spiegazione, la Abbozzo, al fallimento di quel tentativo di Leibniz del quale si parlava ieri. Non ha molto motivo il principe di creare un'accademia indipendente, una corporazione cioè, che questa limiterà il suo potere. Ha più interesse a che cosa? A sviluppare quella tecnica che hanno largamente sviluppata, per la quale dai piccoli consigli di personaggi che godono la fiducia del re o del principe e sono alla sua corte, sono con lui, qualcuno è cum domino residens addirittura, si va spostando man mano che il domino si sposta, da questi piccoli consigli si possono fare germinare i consigli di Stato, o i senati, i governi se volete, il gabinetto per intenderci meglio, ed anche, perché no, quelle specie di consigli superiori della scienza, che sono le accademie non nazionali, reali, perché il concetto di accademia nazionale è un'altra cosa e se ne parlerà in altra sede. Sono accademie reali, organi di consulenza del principe, il quale vuole avere un bel parco e nomina il curatore dell'orto botanico, vuole avere una buona biblioteca e nomina il bibliotecario. E stiamo attenti, detto da ex bibliotecario, è presente un altro ex bibliotecario, che il ruolo del bibliotecario non è solo quello di Leibniz o di Muratori, che a un certo punto l'uno è una specie di ministro della cultura e quell'altro è un po' un ministro degli esteri e in certi momenti addirittura un vicario del principe. È anche il ruolo molto più modesto di un autore che non si nomina quasi mai, ma che è il buon Casanova, che ricorda in quel castello in Boemia in cui trascorse gli ultimi anni della sua vita, che in sostanza era un po' assimilato al personale di servizio. Io non voglio, sono ex bibliotecario, non voglio criticare una benemerita categoria, però non pensiamo sempre a Magliabecchi, a Muratori o a Leibniz. Questi potevano fare qualunque mestiere e con le loro forze avrebbero mobilitato il mestiere. Ma il bibliotecario, state attenti, che per quello che io so, è di un rango piuttosto basso. Si nobiliterà successivamente con una rivoluzione della cultura, con una trasformazione sociale che porterà a tutte altre cose. E vabbè, poi spero che in futuro divengano ancora più illustri di quanto non sono adesso, così ho risolto il problema, non ho creato problemi. C'è quindi per il concomitante azione, per la concomitante azione di una trasformazione dello Stato, da una parte accademie gestite direttamente dall'alto e che, ripeto, in nulla sono dissimili, anche se fanno ricerca e anche se fanno ricerca scientifica utile, dal pubblico funzionario. E queste accademie create dall'alto, per intenderci ancora meglio, sono quelle che andranno a finire la riforma napoleonica accanto all'università e che sono ancora presenti in alcuni paesi, l'Unione Sovietica per esempio, che hanno ancora un sistema di istruzione incentrato su una università e un'accademia delle scienze. Questa funzione bipolare è senza dubbio, dal punto di vista di un'ottica razionalistica, la migliore possibile, perché il professore non ha la seccatura degli studenti e quindi può studiare tranquillo. Lo studente a sua volta non ha troppo da avere a che fare con laboratori, si impara il suo manuale e probabilmente se lo impara anche meglio. Sotto questo profilo è situazione perfetta. Che a noi italiani non piace, anche se per quello che se ne sa l'abbiamo inventata noi italiani, in quanto la riforma napoleonica ha preso a modello la riforma piemontese di Vittorio Amedeo II, che a noi italiani, ripeto, questo non piaccia, perché tendiamo a unificare didattica e ricerca scientifica, questo è un altro discorso. Sono schemi e modelli nei quali ognuno ha diritto di scegliere quello che è più congeniale alla sua intelligenza, alla sua cultura, alle sue simpatie, o a quello che vuole. Mi guardo bene. Ma nel mondo del quale stiamo parlando, tutto questo è estremamente fluido. Io non voglio qui riprendere coi re, ma una certa quantità di indeterminazione c'è, perché è ancora possibile ai gesuiti di creare università, le impiantano loro, sulla base di una bolla pontificia di contenuto discutibile. E addirittura a Genova provocano un grosso conflitto, perché c'è un'università in funzione e non vuole che si apra quella gesuitica, memoriali che vanno di qui e di là. In Sicilia aprono a Messina, provocando le ire di Catania, provocando le ire di Palermo, perché temono che vi portino più gli studenti. In Sardegna aprono Sassari, provocando le ire di Cagliari. Dove possono introdurre un collegio, tranquillamente impiantano un'università. Ma che questa stessa università sia qualcosa di diverso da quello che noi pensiamo, denunciano altri due fatti, sto sempre nell'ordine dei fatti. 1564, Pio IV decide che l'Accademia degli Invaghiti di Mantova, della quale c'è rimasto poco, venga nominata Conte Palatino, che vuol dire che può legittimare i bastardi, non so quanti fossero a Mantova, nominare i notai, non so che, su quale ce ne fosse bisogno, conferire lauree. Questa accademia è finita nella Virgiliana di Mantova e l'archivio c'è ancora, ha realmente conferito lauree. Se abbia anche gestito corsi di studio, non lo so. Dall'archivio non si riesce a ricostruirlo. Però lauree ne ha conferite. È stato quindi un 1564. È stato quindi un ente cui la legge, per volere del pontefice, conferiva questo potere. Altro fatto, saltiamo di 100 anni rotti. Autobiografia di Giannone, autobiografia di Vico. Questi hanno studiato legge, ma privatamente. Non andavano all'università. Andavano da un professore, da un avvocato, il quale spiegava loro in cosa era il diritto, quali erano i concetti della vita forense, come cioè dovevano regolarsi. E contemporaneamente, qualche anno prima, quando Celestino Davia, il cappellano maggiore, pensa di riformare l'università a Napoli, esce in una affermazione che ai professori forse può fare un po' dispiacere, perché dice che lui si è messo in giro per cercare insegnanti, ma le poche persone da bene si sentivano oltraggiate allorché si offriva loro una cattedra universitaria, che vuol dire che se gli studenti non frequentavano già allora, c'era già allora una forma di assenteismo universitario, dall'altra parte erano ripagati di qual misura, perché non c'era molta voglia da parte dei professori di fare i professori. Sul fine del 600 viene rimessa in piedi l'Università di Modena, anche qui molte cose andrebbero dette. Viene rimessa in piedi perché gli enti locali insistono e Muratori la frequenta. Muratori parla con simpatia dei suoi professori, non li ricorda affatto con disprezzo. Però di uno dice che insegnò un po' il diritto, poi gli offrirono di fare l'arciprete a Sorbara, abbandonò la cattedra e si mise a fare l'arciprete a Sorbara. Ma avrà forse avuto una crisi religiosa. Un altro invece, il caso è più divertente, aveva cominciato a fare il poeta. Poi, o che la sua poesia non rendesse o che fosse cattiva, passò a insegnare diritto. E Muratori, poi professore in quanto giurista. Poi gli offrì una cattedra di discipline naturalistiche, non ricordo quale fosse, e si spostò dal diritto, mettete, alla botanica o alla fisica o a qualche altra cosa ancora. Io sono ben lontano dal pensare che fosse Petrarca, o che fosse Newton, o che fosse Alciato, me ne guardo bene, suppongo fosse estremamente modesto, ma questa disinvoltura di passaggio da una cattedra all'altra testimonia anche che la pubblica opinione che c'era, i governatori dello studio che c'erano, non ci trovavano niente di strano. Se io provassi oggi a far domanda di passare su una cattedra a medicina, suppongo che dal preside al rettore al ministro si scandalizzerebbero. Questi invece passavano, il che vuol dire che non c'era una differenziazione abbastanza forte. Veniamo ora, cerchiamo di arrivare in fondo. Ah sì, non ho fumato un sigaro di prima mattina, come Olmi, ma molte sigarette dall'alba. Vediamo ad arrivare un momento in fondo. Poche cose, e poi cominciava a finire. Vasoli notava ieri, chiamando in causa se stesso, perché l'avrei chiamato immediatamente in causa io, che i giuristi scompaiono dalle accademie e rientrano nel Settecento. Il problema corrisponde a quello che io so, ma richiede una spiegazione che io non sono in grado di dare, Vasoli probabilmente sì, e che secondo me dovrebbe andare su questa linea per quello che so. Quando scoppia il mondo nel Cinquecento, il giurista è ancora legato a una massima che troviamo nella glossa, natura id est deus, ha cioè un concetto di natura che secondo me non coincide o non coincide in toto con quello che ne hanno i cosiddetti naturalisti. Sono due concetti diversi. Se noi prendiamo Grozio, nel Mare Libero troviamo un concetto di natura che può somigliare a quello di Pietro della Valle il Pellegrino, per intenderci, per citare un Linceo. Ma appena prendiamo il De Jure Belli et Pacis, il discorso cambia, perché lì sin dall'inizio si dice che occorre creare un sistema di diritto naturale che sia valido, etiam si daretur non esse deum, che l'arminiano, profugo dell'Olanda in un paese cattolico, per evitare di essere ammazzato nelle controversie fra protestanti, fosse quindi un po' fuori posto in questo mondo travagliato da lotte religiose, Ad Albrecht si salvò scappando alla finestra durante un sinodo particolarmente infuriato, e cioè a lui, ministro del culto, questa clausola «Essiam cigaretum non esse Deum» fosse chiaramente una clausola compromissoria, non c'è dubbio. Ma il diritto di natura che si viene a costruire dopo Grozio, quello che poi nel Settecento arriverà a una sua sistemazione, che renderà possibile ai giuristi rientrare nel consorzio dei dotti, e questa sistemazione prende per base proprio Grozio, e quindi l'ipotesi di un razionalismo laico che prescinde completamente da quel richiamo alla teologia, da quel richiamo a Dio, del quale erano sostanziate tutte le dottrine giuridiche dell'età medievale e moderna, e alle quali in fondo i giuristi rimasero fedeli anche nel corso dei secoli successivi. Non rimasero fedeli perché si sia conservatori o perché si sia particolarmente cattolici in quanto giuristi. Rimasero fedeli perché il rischio di cominciare a smuovere la piramide giuridica che si era costruita era un rischio che non si poteva correre, perché saltava per aria immediatamente la certezza del diritto. Se io mi metto a fare indagini storiche, nel giro di 3 o 4 mesi, frugando negli archivi, riuscirò a dimostrare che questo palazzo non appartiene al suo attuale proprietario, ma appartiene a qualche un altro. Mi pare che valga la pena? Io penso che no. Se questa operazione cominciamo a fare per tutti i possibili palazzi, qui salta per aria tutto. Una rivoluzione può distruggere la vecchia legislazione, dichiarare che si riparte da zero, ma perché ha la forza delle armi in mano e quindi è in grado di reprimere ogni malcontento e quindi è in grado di dire incipit novus ordo. Ma un giurista non è un rivoluzionario per lo più, la forza non ce l'ha mai, non è in grado di ipotizzare quell'attimo in cui la vecchia legge non c'è più e la nuova non c'è ancora, nel quale quindi non c'è più né doveresse né liceità, nel quale io posso ammazzare chiunque a patto che ne abbia la forza, perché si torna a quello stato di natura in cui era la forza che governava e non il diritto, che della forza è o cerca di essere come può esattamente l'antitesi. Il come sia mutato il concetto di natura va da sé, che è tema sul quale io non sono in grado di spingermi molto in là, perché non rientra nelle cose che so. Sono molto poche, di quelle poche vi do conto, di quelle altre, più che dirvi che non le so, e che forse, secondo me, ha l'impressione, potrebbero essere meritevoli di studio, non posso andare. E allora, dopo tutta questa bella chiacchierata, devo arrivare in fondo, anche perché i gentili moderatori guardano anche il mio orologio. Devo arrivare in fondo e vediamo di arrivare allora al resto. Noi abbiamo tra la Ticia una certa immagine che anch'essa deriva dalla dottrina tedesca del secolo scorso, con i grandi fondatori del diritto, non perché siano presenti molti colleghi tedeschi, la verità è questa. E questi hanno distinto, hanno con Hegel elevato a forma di assoluto lo Stato con la S maiuscola. Di qui è nata una attenzione dei giuristi verso lo Stato che ha privilegiato questa forma di associazione, tutti sappiamo che è un'associazione, rispetto ad altre forme associative. Sono stati studiati fenomeni di associazioni corporative con particolare interesse per la circostanza che il regime fascista reintrodusse un ordinamento corporativo, c'era quindi una motivazione anche politica, andare a scoprire che i nostri antenati già si erano bene e saggiamente condotti adottando quelle certe forme di governo. C'è una ricca bibliografia sulle origini del comune, altro tipo di associazione, anche qui per motivazioni in parte politiche, ma sulla vita del comune dopo la sua nascita c'è molto poco, molto molto molto poco, su come fosse organicamente strutturato. Su tutte le altre associazioni non c'è niente. Orbene, salvo i pii sodalizi laicali, le associazioni di culto e cose di questo genere, che in larga parte però rientrano nel concetto di corporazioni professionali, perché in ogni associazione professionale l'aspetto religioso c'è sempre. il santo patrono, l'obbligo di andare alle esequie del collega e via di questo passo, sono elementi costanti e presenti. C'è quindi una grossa lacuna per quanto riguarda i nostri studi sulle associazioni che non siano quelle massime dello Stato o del Comune, ma che siano diverse da esso ed eventualmente dissonanti da esso. I tedeschi distinguevano come elementi dello Stato il popolo, la sovranità e il territorio. E questa è una definizione che c'è nel manuale e che ha subito qualche variazione nel corso del tempo, in particolare per quanto riguarda il territorio, perché era sotto gli occhi di tutti che il Supremo Ordine Militare di Malta territorio non ha, eppure ha una personalità giuridica internazionale, che la Santa Sede fino al 1929 un territorio non l'aveva e con tutto ciò nessuno dubitava che fosse dotata di personalità giuridica internazionale, perché infine, legandosi al territorio, il Principato di Monaco o la Repubblica di Malta sono forse piuttosto esigue per essere concepite nella stessa categoria concettuale, alla pari della Cina, dell'Unione Sovietica, degli Stati Uniti, alla pari, cioè in realtà di ben altra corposità in uomini e in ettari. Quindi questo territorio è rimasto un po' nell'ombra, ed è un rimanere nell'ombra che ha recuperato la vecchia dimensione, perché il territorio, come elemento concettuale necessario per delimitare lo Stato, l'hanno introdotto appunto i tedeschi, quando in epoca di nazionalismo dovevano giustificare lo Stato nazionale tedesco, dovevano giustificare il passaggio dalla politica al diritto pubblico, che è il grande sforzo della cultura tedesca del secolo passato, e appunto per questo dovevano saldamente ancorare tutto quanto essi andavano dicendo al territorio, perché reagivano ad una frammentazione dello Stato tedesco in mille principati, che è un destino storico della Germania, in questo molto simile a quello italiano. I tedeschi forse ancora più frammentati di quanto non siano stati gli italiani nel corso dei secoli, anch'essi però con un fortissimo senso del territorio come elemento di coesione e come elemento possibilmente da raggiungere e recuperare nella sua integralità. Ci sono motivazioni politiche e stiamo attenti che le motivazioni politiche non sono di per sé sole turpi, molte volte sono più che valide e hanno giustificato il lavoro di intere generazioni di studiosi. Popolo, quindi, e sovranità. Ma se andiamo a vedere popolo e sovranità, allora non c'è molta difficoltà ad accorgersi che tutte le accademie che nascono dal basso hanno un popolo e una sovranità. Non quelle che nascono dall'alto, perché la sovranità ce l'ha il principe che le istituisce, ma quelle che nascono dal basso sì. E in qualche caso abbiamo addirittura forme di formazione di un contratto sociale, come nel caso dell'Arcadia, ma non è il solo. Di accordo, cioè, fra coloro che creeranno l'Accademia, che stanno ponendo in essere il nuovo sodalizio, della forma del patto giurato, che dà garanzia quindi di durata, e nella forma di regolamento dei diritti e doveri di coloro che vanno a inserirsi nella società che stanno creando. Quel termine di Gesellschaft che ricorreva ieri è significativo di una concezione. Esiste una società extra-stato, ma che è ad instar rei pubblici, ad instar o contra rei pubblicam, e qui è il punto, perché i due tipi fondamentali sono o quelli che rispecchiano quella fortissima attrazione che le repubbliche oligarchiche, parlo di Venezia, ma potrei parlare anche di città tedesche, hanno esercitato sugli intellettuali, e allora si va al principe nominato a vita, per esempio, si va a un doge in sostanza, ma con una serie di meccanismi interni che rispecchiano bene l'esperienza storica veneziana, perché io non sono un esperto di storia veneziana, ma se c'è un aspetto che mi ha sempre colpito, leggendo qua e là quello che mi capitava, è che la storia di Venezia, dal mio punto di vista, è la storia della invenzione di una serie di freni e contrappesi all'opera del doge. Si diceva un tempo che era una monarchia temperata dalla decapitazione del re, cioè ogni tanto lo ammazzano, così il problema si è risolto, ed era a livello di barzelletta. Ma in realtà la proliferazione delle cariche pubbliche che si vanno creando ha come scopo una serie di contrappesi a un possibile governo monarchico, e qualcuno ci ha provato anche, ed è finito male, a un possibile governo monarchico che l'oligarchia vuole evitare. E anche all'interno delle accademie si instaurano questi meccanismi. Ad instar rei publice vuol dire che si ripete, non per una esplicita geometria, che è quello che saremmo indotti a pensare, che si applichi cioè una legge della mineralogia per cui il frammento di un cristallo ha la stessa struttura del cristallo grande e si vogliono applicare cioè gli stessi schemi organizzativi alla periferia e al centro. Non per questo, l'esprit de geometrie è piuttosto recente nella storia di queste istituzioni e la follia della geometrie forse ancora più recente, forse ancora più futurista, meglio dire che ancora più recente. Ma perché ognuno vive avendo in testa un certo schema ed è facile che pensi che la liceità è collegata all'aderenza a quello che si verifica a livello di Stato. È facile che si pensi che se c'è una costruzione democratica che prevede il metodo elettorale, tutto deve essere fatto in chiave elettorale, trasportando cioè a settori che forse non vorrebbero questa tecnica il meccanismo di selezione della classe dirigente che il Costituente ha scelto quando ha fatto la Costituzione. Ci sono poi quelle contro legge e per quello che io so quelle contro legge sono prevalentemente in Italia meridionale e in Lombardia. Sarebbero quindi secondo me da collegarsi a una diretta influenza spagnola. Me lo documenterò poi. Contro legge sono quelle e sono parecchie, nelle quali proprio perché il senso della giuridicità è non filtrato da responsabilità, da potere, da cariche pubbliche, tranquilli, tranquilli si dice che tutti sono uguali. Tranquillamente si dice che non vi siano sedie diverse, ma le sedie siano tutte uguali o noi occhi come gli capita. Chi arriva si siede, non c'è un posto fisso. Dove si dice che si riconosca l'autorità a chi è stato eletto, ma si pone in essere un meccanismo elettorale che in qualche caso è addirittura incomprensibile, perché nella frenesia normativa della quale ha parlato qualcuno ieri, si stabiliscono meccanismi così garantisti, così tali da impedire l'ambitus o il broglio elettorale o la corruzione, i fenomeni che i giuristi sanno essere presenti in tutte le umane associazioni, non siamo santi, nello sforzo di impedire questo si vanno inventando norme una sull'altra, con elezioni di secondo o terzo grado, complicate da qualche sorteggio intermedio, o da qualche caso in cui chi è minoranza automaticamente diventa maggioranza. Sono tecniche che agli amici tedeschi forse sono sconosciute, ma che noi italiani in fondo abbiamo già visto applicate nella formazione di concorso, delle commissioni di concorso per cattedra universitaria, dove stiamo giocando con tutti i possibili strumenti di sorteggio, elezione, rinunzia, rifiuto, via di questo passo. E altre formule la fantasia del legislatore inventerà, sempre cercando di guarire un male che non è un meccanismo normativo che possa guarire, che evidentemente risale da un'altra parte. Quindi si realizza un'eguaglianza che è un nuovo Stato, è uno Stato extraterritorium, dove non c'è il conte, dove non c'è il nobile, dove tutti sono individui di pari dignità e tutti parlano. E guardate che l'operazione non è di poco conto. Perché io vorrei che vi immaginaste per un attimo se in questa stanza fossimo arrivati tutti spogliati delle toghe accademiche che abbiamo nell'armadio, e cioè fossimo arrivati non con il professor Raimondi, professor, arrivamo, sì, ma c'è il bidello l'ha comprata, non come Raimondi, Vasoli, Pecorella, mi scuso se mi metto in questa triade, come cioè uomini dei quali è capitato di leggere qualche cosa e si sa essere professori universitari, ma se fossimo arrivati simpliciter, non dico nudi perché la decenza lo vieta, ma spogli, così cosa è più accademica, di questo peso che grava sulle nostre spalle, come dicevo prima. L'idea che solo spogliando l'uomo di quanto ha trovato dalla nascita, patrimonio avito o no, titolo nobiliare o no, consuetudini con libri o no, biblioteca paterna o no, e via di questo passo. L'idea che solo in questo modo si possa realizzare una vera eguaglianza è un'idea forza per il mondo nel quale essa viene attuata, ed è un'idea forza in quanto contrasta violentemente col rigido rituale del cerimoniale spagnolo, con cui c'è una serie di precedenze pressoché infinite che provocano ogni volta contese spesso violente, che vanno rispettate e che soppesano ognuno di noi per il grammo o per la virgola, stabilendo che se il titolo della mia disciplina è A o B, mi deve passare avanti o no il collega della cattedra accanto. Guardate che siamo arrivati in età spagnola a queste che possono sembrare aberrazioni e che forse non sono ancora finite. Non giurerei che il titolare di un corso obbligatorio nelle nostre facoltà non abbia maggior prestigio di quello che invece insegna un corso complementare, i rigidi di insegno complementare, per scelta mia. Dov'è che rispettano le norme? Beh, c'è un caso, e anche qui volevo dire che non sarei incline a sottovalutare. Nel campo degli emblemi, con questo chiudo. Qua si è ricordato ieri che Galileo intervenne per disegnarne uno, aiutare a disegnarne uno. E quindi l'operazione di scelta dell'emblema non era certamente un'operazione da poco, se non con Galileo aveva tempo da perdere a occuparsi di questo. Come è nato questo emblema? Al tempo di Bartolo, le insegne cavalleresche, siamo nel 300, erano già molto scadute. Nel De Insignis et Armis, Bartolo si occupa prevalentemente dei marchi di fabbrica, che hanno in fondo lo stesso regolamento e in fondo anche la stessa funzione di distintivo che caratterizza qualche cosa. Noi poi, quelli che fanno questo mestiere, hanno letto quando erano giovani un famoso libro di Salvemini, in cui Salvemini, pur non essendo toscano, si era toscanizzato. E allora raccontava la storiellina del cavaliere tedesco, dobbiamo dirlo, dato che siamo in ambiente italo-germanico, il quale, sceso a Firenze, incontrò un altro cavaliere fiorentino, il quale aveva un emblema identico al suo. Il cavaliere tedesco faceva parte di una nobiltà seria, evidentemente, e quindi si rivolse a quello dell'altro emblema, sfidando a duello, dicendo che così la morte deciderà quale dei due può continuare a portare questa insegna. Il fiorentino invece era un bravaccio da poco, perché gli rispose che non c'era motivo di combattere a sangue, glielo poteva vendere per poco prezzo, ricedeva il diritto d'esclusiva. Anche questo forse comporterebbe un piccolo lavaggio del cervello, tutti l'abbiamo letto, e con la forza dell'aneddoto, ed era un aneddoto un po' toscano, anche se Salvemini era di Molfetta, ma era ormai toscanizzato, si è impresso nella nostra mente, facendoci pensare che a queste cose non si desse importanza. Beh, insomma, Galilei se ne occupava e quindi priva di importanza non era. Ma perché? Ma perché nel momento in cui c'è una societas perfecta, la quale ha una sua giurisdizione, la quale ha delle sue sanzioni penali, è chiaro che anche la bandiera, lo stemma, corrispondono a quello che, con qualche sorriso divertito, anche noi riscontriamo nel nostro Stato. Si va all'estero, si sente una musichetta, tutti si alzano, guarda, inno nazionale. Si guarda sul passaporto, c'è una rota dentata, guarda l'emblema dello Stato italiano. Di queste cose ne vediamo tutti i giorni. E possono anche avere una funzione. È chiaro che non sono degli intellettuali disincantati che prestino molta attenzione agli stemmi o agli inni nazionali, ma sono la proiezione esterna, visibile a tutti, di un potere che c'è e che è un potere reale. Perché il giorno in cui c'è un conflitto fra due accademici, se essi vanno in tribunale, sono entrambi espulsi. E l'espulsione significa ignominia, l'espulsione significa disonore, non ci si fa espellere da un'associazione. Guardate che è un meccanismo che sembra remoto, ma che è ancora presente nei partiti politici, nelle associazioni sportive. Perché mai un calciatore non ricorre mai al tribunale? Che sarebbe buttato fuori dall'associazione e smetterebbe di giocare, cioè perderebbe il mestiere. Perché mai iscritto a un partito politico non ricorre mai al tribunale? Lo potrebbe anche fare, ma non lo fa, perché la sanzione, che non ha dalla sua i carabinieri, che non ha dalla sua la forza repressiva dello Stato, è ancora più forte di quella che potrebbe ottenere dall'intervento repressivo dello Stato. È sempre bello scoprire che la forza, tutto sommato, non sta nella baionetta, non sta nel fucile, che per dirlo alla Metternich, con la baionetta si possono fare molte cose fuorché sedersi sopra. Non si sta, cioè, in un regime di tranquillità grazie alle baionette. La forza sta altrove. E la forza sta proprio in questo, nel prefigurare non un mitico patto sociale fatto chissà quando, ma in un patto che facciamo hic et nunc, quando uomini di buona volontà si riuniscono, inventano una serie di norme organizzative, inventano una giurisdizione, che è un altro elemento portante di ogni Stato civile, e decidono da attuarle. E questo ha due funzionalità. La prima è quella che i partecipi di questo organismo si sentono finalmente uomini liberi. La seconda è l'aspetto rappresentativo. Tutte queste cose servono a iniettare nella testa degli uomini che il mondo non è necessariamente quello dello stato assoluto, della polizia, del carcere. Può anche essere quello dell'Arcadia. Se poi l'Arcadia si sfascia, questo è un altro discorso. Ma come esperimento teatrale, come esperimento in un teatro politico, nel quale, come diceva Gravina, si raffigurano i mali dello Stato, onde indicare un nuovo, diverso, migliore Stato, in questa chiave sicuramente funziona. Che poi ci siano le pompe e le mascherate, cari amici, qualcuno ne ha parlato male, ma faccio un'ultima osservazione e chiudo. Provate ad andare in un tribunale inglese e vedrete che il rito è pure pomposo. Per comune consenso dei giuristi continentali, i tribunali inglesi sono quelli che meglio funzionano, cioè più rapidamente assicurano la giustizia alle parti, che è quello poi che al tribunale si chiede e non altro. Beh, lì c'è ancora la parrucca incipiata e con tutto ciò funzionano bene. Non è detto che il rito o la ritualità o la pompa deve essere necessariamente qualcosa meritevole di irrisione. Meritevole di irrisione siamo noi, nel momento in cui partecipiamo al rito senza crederci. Ma se ci crediamo, non c'è niente da ridere, perché le cose sono o possono essere serie, o almeno qualcosa di serio possono indicare a coloro che ci stanno a guardare. E con questo mi scuso e ho finito. Signore Lazzeri, cari Bianfang, uns steht die Zeit bis 16:30 für Diskussion zur Verfügung. Es wäre gut, zu Beginn einige Fragen noch zu den beiden Referaten, Relationen, die Herrn Ziegler und Herrn Müller anzuschließen und dann zu einem eine Abschlussdiskussion zu kommen. Allora, problemi tra i professori Müller e Ziegler, fine professor Müller, perché Ziegler è partito, professor Galla. Ich möchte ganz kurz etwas Relatives zu den beiden Referaten sagen, the Ancientes. Professor Ziegler hat uns erzählt, und das ist auch die Kritik vor einem Referat vom Kollegen Müller, über die Gründung der Akademie in Olmütz durch den Baron Detterer. Das sind Namen gefallen, die also so richtig ins Konzept der Aufklärung passen, darunter ist auch Hans Witten, der bekanntlich nicht nur ein Leibarzt, sondern der Reformator der österreichischen Studien gewesen ist, im jansenistischen aufklärerischen Sinn. Dann ist auch gefallen der Name Handtaler. Dieser Chrysostomus Handtaler. Handtaler. Falsifikator. Ist jetzt der Lilienfelder Giftsaktuar gewesen und ein großer Fälscher. Er hat Autor erfunden, er hat ganze Reden erfunden. Ich wollte das nur sagen, so relativ ist das mit dem Fortschritt, selbst in der Abwehr. Und das Zweite, was mir auch eingefallen ist, insbesondere beim Referat des Kollegen Himmler, ist, wie relativ das mit den Jesuiten war. Im Moment, wo der Orden aufgehoben war, waren die Jesuiten, nämlich die Ex-Jesuiten, plötzlich alle große Wissenschaftler. Es ist unbeschreiblich, wie es in Österreich aussieht nach der Aufhebung. Sie wimmeln überall, wo es eine Bibliothek, ein Archiv, eine Forschungsstätte gibt, eine Sammlung, ist ein Ex-Jesuit am Werk gewesen. Das ist also auch etwas zur Relativierung der Geschichte und ihrer verschiedenen und so fort. Ich glaube, ich mache das auch. Danke. Direkt dazu, Herr Dickerhoff. Ich hätte eigentlich etwas ziemlich weit ausschauendes. So, dann sagen. Vielleicht erst dieses. Ist, das geht nicht dazu. Nein, nein. Dann vielleicht vom Professor Gahl. Ja. Dass Sie kurz ja. Das Grundsätzliche. Die erste sagen. Frage: Welche Antwort? Ja. Wenn Ziegler, Professor Ziegler nicht da ist. Ich glaube, die Antwort, es war keine Frage, es war eine Ergänzung, eine Notizia dazu, eine Feststellung. Und die Zeit, das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts wurde in Österreich und auch in Bayern, in den katholischen, ehemals, also katholischen Territorien, wesentlich getragen von der Geistesarbeit der Exklusiven. Va di zweite Ergänzung an. Sì, nell'ultimo quarto del XVIII secolo il lavoro culturale in Austria e nel mondo della Baviera fu sostenuto soprattutto dagli ex gesuiti e si aggiungeva anche, sembra inconcepibile credere che gli ex gesuiti abbiano scoperto d'improvviso certe disposizioni e certe attitudini. È un fatto che quando si va a cercare, a vedere raccolti archivi, lì c'è sempre la mano di un ex gesuita. Allora, eine Bemerkung, die etwas weiter ging, die vor allem anschließend an das Referat Ziegler, der mich beauftragt hat, in seinem Namen etwas zu antworten. Ich habe die doppelte Funktion. Ja. Es ist ein Credo der deutschen Geschichtsschreibung, ich zitiere Hammermeier, dass Status und Funktion von Universitäten und Akademie klar umrissen und voneinander geschieden seien. Zitiere. Aber der Name Universität, Akademie kommt ja kaum vor. Wo fängt man an, von Akademien zu sprechen? Wo, das ist die Frage, die sich an das Referat Ziegler anfängt. Warum sagen wir Benediktinerakademie im 18. Jahrhundert und sagen nicht Akademie zum Jesuitenorden? Leibniz hat gesagt, das ist eine Akademie. Warum sagen wir nicht Akademie für den Maurinen? Und der, hier ist ein Problem der Terminologie. Es gibt nicht in Deutschland diese Kontinuität des Begriffes Akademie. Der kommt nicht vor, weil er von der Universität besetzt ist. Wo sollen wir einen Begriff bilden für Akademie? Sollen wir sagen, dort, wo ein wissenschaftliches Gemeinschaftsunternehmen, wie eine Zeitschrift oder eine Gemeinschaftsedition vorhanden ist, dort reden wir von Akademie. Da könnte man also die Mauriner oder die Hollandisten als Akademie bezeichnen. Mit einem kleinen Blick auf Referat von Herrn Müller möchte ich sagen, auch innerhalb des Jesuitenordens, wo sich das Verhältnis zwischen der Arbeit des Mönches und der Wissenschaft etwas anders stellte als bei den Benediktinern. Sie kennen alle den berühmten Tractatus de Studiis Monachorum von Mabillon gegen Abbé Roncé, den Trappisten, der Handarbeit haben wollte. Auch innerhalb des Jesuitenordens, wo ja die wissenschaftliche Arbeit a priori möglich war, es gab kein Stundengebet etc. etc. Auch da war das Problem ja gegeben, weil der Orden in einer Vielfalt von Arbeitsaktivitäten gebunden war. Und um wissenschaftlich zu arbeiten an einem Gemeinschaftsunternehmen, musste man freigestellt werden von der Regelarbeit. Ich möchte hier zwei Beispiele nennen. Der berühmte General der Gesellschaft Jesu, Claudio Acquasparta, Acquaviva. Der General der Sutratis Iorum hat in Rom und in München 1608 oder 1609 sogenannte kirchenhistorische Institute gegründet, Institutionen, wo konzentriert wurden Wissenschaftler der Sozietät, um dort die Magdeburger Zenturien in einer Gemeinschaftsarbeit zu widerlegen. Also hier eine Mutation des Problems, anders als beim Benediktinerorden, worauf Herr Ziegler vorhin eingegangen ist. Hier ist es die Freistellung von den regulären Arbeiten, etwa in der Universität, die es nicht ermöglichen, dauerhaft an einer solchen Projekt zu arbeiten. Ich habe vor Jahren einmal darüber gearbeitet, dass in der Universität Ingolstadt man 1624 einen Lehrstuhl der Geschichte einrichten wollte. Und da sagten die Jesuiten, man kann ja für die Studenten in dem Studium, im dreijährigen Studium, gar nicht Geschichte ausreichend darbieten. als Fach neben Physik, Metaphysik, Logik und so weiter. Man braucht, um Geschichte zu studieren, viele, viele Jahre. Darum brauchen wir ein eigenes Institut, also ein historisches Institut, hier speziell historisch, um vertiefte Arbeit. Hier ist ein Problem, wo kann man vom Orden speziell von Akademie sprechen? Wann, bei welcher Qualitätsschwelle fängt man an, Akademie zu sprechen? Weil ja überhaupt in Deutschland nicht Akademie gesagt wird. Ein zweiter Punkt, Akademie und Universität. In dem Zitat, das ich verlesen habe, heißt es, Status und Funktion von Universität und Akademie waren klar umrissen und voneinander getrennt. Nego. Quier, weil es viele Pläne gibt, die das miteinander verbinden. Einer der Pläne, von den Herr Ziegler heute früh erwähnt hat, von Oliver Legipon, sagt es sehr schön, ich möchte hier ein Zitat bringen. Er hat in Heidelberg eine Zentralakademie der Benediktiner vorgeschlagen, 1747, und nennt diese auch nie Akademie. Aber einmal Seminarium Benedictinum. Seminarium. Und sagt, ad quod ordinis alumni, post absoluta studia scholastica, cum superiorum velia dirigi poderum ulterius, ulterius informandi in polemicis jure publico, Historicis, oder Historicis. Ergo, Academia, die sich nie Akademie nennt, als Weiterbildung nach dem Universitätsstudium. Dafür gibt es keinen Platz. Es klagt Michaelis, dass unseren meisten Universitäten noch eine Gelegenheit mangele, solche, die in der Gelehrsamkeit etwas Mehres tun wollen, nach vollendetem Triennio oder Quadriennio weiter zu bereiten. Academia, la voce non è stata, Academia als Weiterbildung, als Postgraduate Studium. Und eine dritte Realisation des Akademiebegriffes, zum Teil resümieren das, was heute schon gesagt wurde. Academia versus Universitate. Ein Zufallsprodukt der Historie, ein Produkt, das entsteht wegen oder aus der Tatsache, dass die Jesuiten Monopolisti sind. Sie haben die Universitäten, die philosophischen und theologischen Fakultäten, weithin besetzt. Sie halten ihre Position fest. Und im südlichen katholischen Deutschland werden alle neuen Gedanken im Streit, con la Società di Gesù, ausgefochten. So kommt es dazu, dass Akademie als Konkurrenz in Feindschaft gegen die Universität steht. Es ist nicht a priori nötig, sondern es entsteht hier eine geistespolitisch, ideengeschichtlich bedingte Gegenüberstellung von Universität und Akademie, die im südlichen Deutschland, in Bayern vor allem, sehr akzentuiert ist. Wobei man sagen muss, dass die Akademie sich als Konkurrenzuniversität in gewissem Umfang versteht. Insofern, als sie Publicae Lectiones übernimmt, per esempio in München, die deutsche Vorlesung über die deutsche Sprache, und im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr öffentliche Lektionen, bis sie im frühen 19. Jahrhundert auch das Promotionsrecht wenigstens in der Medizin erhält. Akademie also vielfältig und kein eigener Inhalt, Konkurrenzuniversität. Also sie ist nicht so sicher, dass gelehrte Sozietät, gelehrte Arbeit, die Existenz eines solchen Position auffüllen kann, dann übernimmt sie Lea auf in einer Vielzahl von Fällen. Ich möchte es nicht vereinfachen, aber also ein Beispiel. Und noch ein Beispiel, das den Vortrag von Herrn Beckmeyer aufgreift. Accademia dei Officiali, die Akademie als Beamtenkörperschaft, als ein Regierungsinstrument. Ich habe gestern versucht, im Widerspruch zu Herrn Hammerstein zu zeigen, dass die Leibnizischen Pläne zum Teil diese Konzeption schon hatten. Ich möchte das auch nochmal vertiefen. Das kommt im späten 18. frühen 19. Jahrhundert in der napoleonischen Ära, etwa in Bayern, zur vollen Wirksamkeit. Die Reform der Accademia delle Scienze di Monaco von 1807 stellt die Akademie dann wieder von allen Lehraufgaben frei. Sie soll nicht mehr lehren, aber sie hat besoldete Mitglieder und sie ist da, Gutachten zu schreiben für die Regierung auf Anforderung und sie ist da, zu angestellt, eine Überwachung des gesamten Stipendien- und Weiterbildungswesens, des Postgraduate-Studies zu übernehmen. Hier also eine Akademie als Kultusministerium in einem gewissen Sinn, da hätte man gern Präzisierung gehört. Ich habe zum Beispiel gehört, die Accademia della Pugna in Milano hat ähnliche Funktionen und in der Zeitung Beccaria im umfassenden Sinne gehabt. Ich glaube, hier sieht man in einigen Beispielen, dass der Begriff Akademie im deutschen Sprachraum enorm vielfältige Verwendungsmöglichkeiten hat. Es ist problematisch zu sagen, dass Status und Funktion der Akademie in Vergleich zur Universität klar definiert sind. Die Frage der begriffsgeschichtlichen Arbeitsweise ist damit wieder gestellt. Direkt dazu. Herr Dickerhoff hat die Antwort selbst übernommen und trotzdem eine Antwort von mir. Dieser Rahmen, ich würde diesem Rahmen zustimmen, den Sie geben. Nur mit einer Einschränkung und einer Frage. Die Einschränkung betrifft die kurze Phase der Lehrtätigkeit, des Lehrauftrages, der Vorlesungen von der Akademien. Das ist eine kurze Phase und das scheint mir in Ihrer Linienführung etwas zu überbetont. Zweitens, Jesuiten und Akademie. Zum Scopus, zum Ziel des Jesuitenordens gehört laut den Konstitutionen eben gerade nicht die Wissenschaftspflege als solche, wenn wir vom Gedanken der Wissenschaftsakademie ausgehen, sondern das Ziel, Nachwuchs zu erziehen, also zu lehren. Der Jesuitenorden hat Kollegien gegründet, hat zwei Universitäten gegründet, hat sonst die Universitäten in den Fakultäten Artisten und Theologie übernommen. Insofern besteht meines Erachtens ein gravierender Unterschied zwischen den Zielen, den ursprünglichen Zielen des Jesuitenordens und den Zielen der benediktinischen Kongregationen, wobei Kongregationsbildung schon seit dem 15. Jahrhundert, Versuche der Kongregationsbildung im Zusammenhang stehen mit der Verbesserung des Studienwesens. Mabillon und die Marina kann man als Akademie bezeichnen. Den Jesuitenorden in derselben Betonung nicht. Also eine Mach Lese. Nur Herr Leibniz, ich habe zitiert. Ja. Akademie auf Frage. Es sind immer nur Phasen. Leibniz in Berlin muss kämpfen gegen die Zumutung, dass die Berliner Akademie lehren soll. Immer wieder kommt es vor, dass die Akademie lehren soll. Das heißt, auf, mit anderen Worten, es ist nicht klar der Zeit des 18. Jahrhunderts in Deutschland, dass Forschen für sich ohne Lehre genügend ist. Herr Olmi hat gesagt, Wissenschaft forschen als Lebensform. Man könnte fragen, forschen als Lebensform oder forschen und lehren als Lebensform? Jedenfalls, die Akademie pendeln zwischen beiden Möglichkeiten, sie entscheiden sich nicht. Und zweitens zum Jesuitenorden, die Genese der Constitutionis mit ihren Anteilen von Polanco, dann von Ignatius ist sehr schwierig zu erforschen. Die Genese der Ratio Studiorum ab 1584 bis 1599 ist ein sehr komplexes Feld und dabei sind Gewichtsverlagerungen da. Ja. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass der Jesuitenorden ein Nachdruck auf Erziehung versus Wissenschaft gesetzt hat, sondern dass er alle Tätigkeiten ad majorem dei gloria gleich geachtet hat. Und wenn das via Wissenschaft geht, dann auch da ist der Orden und seine Pädagogik ein Spiegel der Gesamtentwicklung. Als System der Pädagogik. Nein, ja. Hätte ich nicht gesagt. Zum Beispiel, Ignatius schreibt in den Konstitutionen Primo Theologia, Secundo Lingue, Tertio anche le scienze naturali sono molto importanti. Nella Ratio Studiorum c'è un'inversione, Primo Theologia, Teologia, secondo scienze naturale, terzo le lingue. Vuole dire, dass in der Zwischenzeit vor dem humanistischen Bildungsideal ein philosophisches die scienze naturale an Bedeutung gewonnen haben, nicht mehr die Sprache als universalische, sondern dazwischen schiebt sich die Naturphilosophie, wobei später also im Moment Raimund Sabunden, Sabautia zum Beispiel spielt da eine größere Rolle. Das kann ich hier nicht ausführen. Ich glaube also, dass die Veränderung des Wissenschaftssystems zwischen Constitutionis etwa 1550 und Ratio Studiorum zeigen, dass nicht die Pädagogik, sondern wirklich die Wissenschaftshaltung entscheidend war, dass also man die Ratio Studiorum nicht von pädagogischen Gesichtspunkten allein, sondern auch und ganz entscheidend von wissenschaftsgeschichtlichen Momenten her sehen muss und konsequenter auch die Jesuitenarbeit insgesamt nicht nur pädagogisch, sondern auch wissenschaftspolitisch sehen. Wobei natürlich klar ist, dass etwa in der Pflege der Geschichte, des Faches Geschichte, der Ausgangspunkt der Jesuiten und der Benediktiner verschieden war. Per esempio, Mabillon schreibt die Rede Diplomatica in Verteidigung gegen Pavelbruch, der sagte, alles vor 800 ist Fälschung. Die Mauriner-Klöster waren gegründet auf Urkunden der Merowinger-Könige. Die Jesuitenklöster hatten neue Urkunden. Die konnten sich den Pluralismo Historico leisten. Der verschiedene Ausgangspunkte hier klar. Jesuiten hat ein schwächeres Verhältnis zur Geschichte, während die Geschichte für Benediktiner nicht nur eine Wissenschaft war, sondern auch eine Rechtsgrundlage ihrer Existenz, ihres Besitzes, eine wirtschaftsgeschichtlich relevante Tatsache. Nur, um ein Beispiel zu sagen, wo hier in größerer Nähe der Benediktiner, die ja auch in dem Lehramt stehen mussten, in den meisten Fällen für Geschichte erklären. Sagen wir mal hier einen kleinen Zäsur machen. Ja, ja. Allora. Formulieren? Ja. Erstens, schon möglich, glaube ich. Ja, also ein Teil These. Ja. Erstens, die These, Herr Dickerhoff, vielleicht stimmen Sie zu. Die These, ja, dass in progress. Akademiegeschichte mehr noch als Universitätsgeschichte jeweils nur funktional greifbar ist in den einzelnen Epochen. These 1. These 2, Begriffsgeschichte ist außerordentlich wichtig, weil sie ein Reflex der Strukturgeschichte ist. Zwei Thesen. Due tesi che possono già essere momento della nostra conclusione. Più ancora che la storia dell'università, la storia dell'accademia può essere tracciata e percepita in termini funzionali. Secondo, la storia dei concetti diventa da questo punto di vista straordinariamente importante, poiché è da essa che si giunge a definire i precisi e complessi fatti d'ordine storico-strutturale. Non so se è possibile. Ubilex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Ma questa vecchia massima latina, scuola il latino, però una volta un linguaggio internazionale, dobbiamo partire. Che il termine accademia sia il giurista parla d'altro. Che il termine accademia sia ambiguo, si presti cioè a raccogliere diversi significanti, diversi in relazione alle finalità. Questo è in Germania. Sono d'accordo con quello che dice la nostra collega, ma diversi anche in relazione alle singole contingenze storiche. Siamo interamente d'accordo. Però dovremmo chiederci perché in una scienza che procede con un linguaggio rigorosamente tecnico non ci siano creati una serie di termini tecnici per classificare questi fenomeni di ordine concettuale. Io sono d'accordo, la scienza dei concetti non si fa dall'astratto ma dal concreto. Però nel concreto costoro non hanno voluto distinguere, hanno usato volutamente un termine ambiguo nel quale rientra tutto. Possono rientrare i centri culturali come Aldo Manuzio o come Cartelli, che sono imprese editoriali non molto dissimili dagli stazionari, se non perché il capitale industriale ormai è arrivato sull'università, si è rovesciato il rapporto. Ma possono rientrare anche le accademie anguiziane, come quella fatta, mi scusi Menzoni, da un avventuriero veneto che aveva fatto in forma di accademie una specie di rete per distribuire a rate i libri che andavano stampando. Ma può entrare anche quella società che si forma a Milano per stampare i rerum dei muratori. Si entra cioè una tale pluralità che evidentemente non hanno voluto distinguere. Allora a questo punto c'è un problemino di storia. Ha un senso che investiamo i termini tecnici noi per distinguere qualcosa che coloro che vissero questi problemi non vogliono distinguere. Io non lo so se sia lecito trattare la storia di ieri con le categorie di oggi e con quelle che forse non sono neppure le categorie di oggi, perché a fini classificatori dovremmo inventarlo il termine, perché le fonti non sono tramandano. E questo è il punto grosso, in cui forse i linguisti ne sanno più di me, anche senza forse. Il criterio funzionalista mi va integralmente bene, l'ho applicato e mi va perfettamente bene. Occorre distinguere cosa si può fare. Un'ultima cosa, la spaccatura è lo scioglimento della compagnia di Gesù. Raramente un avvenimento come questo, sottovalutato, non lo conosciamo abbastanza, ha significato una profonda spaccatura, perché lo scioglimento della compagnia vuol dire liberare i gesuiti dai compiti di insegnamento e dai compiti pastorali. Dopodiché è chiaro che tutti i buoni fanno i bibliotecari, creano musei, girano per il mondo, sono veramente ricercatori liberi dall'insegnamento. L'ipotesi, cioè, di un'accademia delle scienze che faccia pura ricerca, in antitesi o in connessione con l'università, faccia forse anche ricerca, ma che faccia insegnamento, nasce nei fatti, con lo scioglimento della compagnia e con la vocazione allo Stato di quei gesuiti. Sì, quindi non prendi cazzo e mezzo, la sa di vivere. Sì. Let it go, that's all. Herr Müller? Ja, ich wollte auch noch einige Punkte anmerken. Zum einen, was der Diplom machte, war das. Ach so. Ganz. Ja. Es war eine. Es war eine. Es war noch ein Hinweis darauf, dass wir. Wie mehr funktional verstehen sollen. Ja. Ich wollte auch noch einige Punkte bemerken. Zum einen, Jesuitenorden und Leibniz. Wenn Leibniz die Jesuitenorden regelmäßig anbetrieben rückt, dann bezieht sich dies wohl doch hauptsächlich auf die organisatorische Struktur des Ordens, eben auf die Straforganisation, die Leibniz also sehr bewundert hat und was er auch durchaus als Ben Chastors gestern Professor Hammerstein als Beschreibungscharakter. Ja. Prego, per favore. Non riusciamo se no a concludere. Siamo sul punto d'arrivo. Non perdiamo adesso l'attenzione. Und was gestern Professor Hammerstein eben als den Zwangscharakter der Akademie der Leibniz auch bezeichnet hat. Ansonsten hat der Leibniz mit mehrmals betont, dass die wahren Gottes bei den Göttern die Studien anfangen müssen, wo die Jesuiten aufhören. Und dass sich seine Sozietät von Jesuitenorden unterscheidet, da er, dieses Zitat, das Sie zur Verfügung gestellt, Seminarium non tam theologorum, qui finis est Jesuitarum, quam motivum hominum dei publicae plädiert. Dies zum Ersten. Dann zur Konkurrenz von Akademien und Universitäten. So wie Sie es formuliert haben, stimme ich Ihnen voll überein. Das war auch das Anliegen, das ich heute Vormittag formulieren wollte, als ich dieses Beispiel von der Royal Society brachte. Was eben zeigen sollte, dass man nicht von einer gewissermaßen zugegebenen Feindschaft zwischen Jesuiten und Akademien ausgehen wollte. Und in diesem Zusammenhang heißt vielleicht auch noch, dass in dieser Konkurrenzsituation auch zwischen Universität und Akademie aus dem Wege zu gehen. Ja, im Grunde sieht man von Wien an. Alle Akademiepläne der Verleihung sind solche Städten angesiedelt worden, wo keine Universitäten existiert haben. Und in Wien war sie auch nur deshalb, weil in die Nähe zum Kaiserhof gesucht wird. Dann als Drittes möchte ich noch, Sie erwähnten vorhin die Freistellung von Jesuiten zu Anfang des 17. Jahrhunderts für historische Studien und diese, eben dass man davon ausgeht, dass eben Ordensleute mehr Zeit haben als Weltliche, die eben mit Verwaltungsgeschäften und Staatsgeschäften beschäftigt sind. Das war, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt dafür, dass bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zumindest das benediktinische Element so gefragt war, weil man nicht davon ausgeht, die Ordensleute haben ein bisschen mehr Zeit. Ein schönes Beispiel, das es illustriert, sind die Monumenta Boica, die in den ersten 8 Jahre von Bettel und Kennedy regiert worden sind. Dann wurde Bettel. Sterzinger wegen. Ja, gut. Auf jeden Fall, was ich fotografisch herausfinde, ist das, nach 8 Jahren wurde Bettel nach dem Polizist zurückberufen und an seiner Stelle gab es die Kinder, nämlich die Hermann Schollinger, was das vielleicht ganz gut illustriert. Brevissimamente, a proposito del rapporto Leibniz-Gesuiti, Leibniz ammirava l'organizzazione gesuitica, ne vedeva anche quello che ieri Hammerstein ha sottolineato come il carattere costrittivo di un'organizzazione, ma quando poi ha fatto certe enunciazioni ha sottolineato proprio in rapporto a le funzioni della compagnia e delle sue ipotesi come differenziante nella sua prospettiva l'utilità pubblica, nella citazione che è stata letta. Quanto al problema università-accademia, è abbastanza d'accordo con le considerazioni del professor Wickerhoff e anche gli esempi che aveva presentato della Royal Society miravano in fondo a indicare una cosa dello stesso genere, così come anche rifacendosi a certe situazioni viennesi si possono avere effetti, conclusioni storiografiche dello stesso tipo. Quanto poi al problema degli studi storici, richiamandosi anche all'esempio dell'Accademia Bavarese, sta di fatto, per esempio nel caso dei Monumenta Voigt, che i benedettini risultavano avere più tempo e più disponibilità per un certo tipo di lavoro. Grazie. Herr Röck, dann Herr Manzolini. Ich habe eine Frage, die ich aber etwas vorbereiten muss durch einige Ausführungen, die aber gleichzeitig vielleicht auch etwas für ein Resümee geben könnten aus zwei Referaten, die wir gehört haben. Einmal dem Referat von Herrn Pecorella und zweitens dem Referat von Herrn Ziegler. Bitte Sie auch, wenn ich hier jetzt etwas verkürzt noch etwas zusammenfassen möchte, mich zu verbessern, wenn ich es falsch tue und wenn Sie dem widersprechen wollen. Wie ich es verstanden habe im Laufe der, auch gerade im Rahmen dieser Typologie, die uns Quondam gegeben hat und wo auch Professor Raimond mir einige Gedanken dazu gebracht hat, so sieht man doch die Akademien in Italien als eine quasi Gegenöffentlichkeit, als ein Staat im Staat, auch Stato nello Stato o Stato contro lo Stato, extra. Moderno. Ich meinte also damit, jetzt wollte ich zugespitzt versuchen, eine These zu formulieren, die mir darin auffiel, dass hier eben ein Staat gegen den modernen Staat entsteht, wo ein Freiraum für die intellektuelle Diskussion besteht. Ja, ja, ja. Das war jetzt eine Zusammenfassung, gewisser Tendenzen, die mir hier aufschienen. Immunitas. Ja. Immunitas. Gegen. Ja. Nicht nur extra. Ich glaube, es ist also contra. Man muss sehr genau das sagen, sonst wird es falsch verstanden, aber es ist doch ein Freiraum, der entsteht in einer Zeit, wo die Universität vom modernen Staat auch aufgesaugt wird. Ein Freiraum, in dem debattiert wird, in dem sublimiert wird, das, was anderswo nicht mehr stattfinden kann, in dem vielfach auch Frustrationen ihren Platz finden, die anderswo entstehen, wo Frustrationen sublimiert werden. Wo der Homme de Lettres einen gewissen Platz findet, um seine freie Diskussion, eine gegenscholastische Weisheit für die Diskussion durchzuführen und die gerade deshalb nicht einfügt in die Schemata der hergebrachten Organisation. Und wenn die Akademie auch in Italien aufgesaugt wird vom modernen Fürstenstaat, so kann sie immer noch dienen zum Ruhm des Fürsten, der damit aus Ihrem Vortrag ein Fazit, das vielleicht auch mit erklären kann, warum, wie ja hier beschrieben wurde, zwischen Ihnen dann und gestern Professor Olmi, das eben nur in zwei oder vielleicht fünf oder wenigen Fällen jedenfalls Wissenschaft dort betrieben wird. In Deutschland nun kann man ähnlich sehen wie vielleicht die Versuche der Organisation einer monastischen Akademie letztlich auch dazu dienen sollen oder können, die monastische Gelehrsamkeit zu organisieren, zu strukturieren und ihr eine neue Basis zu verschaffen. Im Staat außerhalb der Klosterorganisation ist die Akademie entweder Staatsanstalt. Bei Leibniz ist sie Integrationsinstrument für das gesamte Reich, später dann nur, was eine Folge eines realistischeren Ansatzes ist, der Versuch zur Verbesserung der Situation der Menschen und sei es auch nur im kleinen Territorium zur Verbesserung des menschlichen Glücks. Aber in beiden Fällen, ob es nun die Mönche versuchen oder ob es ein Leibniz versucht oder ein anderer Theoretiker, ist dieses Unternehmen schwierig, denn es bedarf der juristischen Bestätigung, es bedarf der Toleranz durch den Fürsten in einem Fall oder dann eben durch die Organisation des Klosters, des Abtes im anderen Fall. Die Frage entsteht daraus, diese freie Gegenöffentlichkeit, diese Staat gegen den Staat, ich möchte den Satz doch stehen lassen, um die Kooperationsnatur zu betonen. Die etwa der Arzt, der Intellektuellen, der Kleine, der Lehrer oder sonst jemand bilden, die in irgendeinem Dorf in Italien sich zusammenfinden, diese freie Gegenöffentlichkeit als Akademie fehlt offenbar in Deutschland oder heißt es einfach in Deutschland nicht Akademie? Frage also. Die Frage also, wenn diese Akademie als Kooperation entsteht und wir hier dann Unterschiede finden und sagen, bei uns sieht es eigentlich anders aus, da ist diese Sublimation nicht so sehr im Mittelpunkt, da wird eben eher menschliches Glück gesucht oder wirklich Wissenschaft gemacht, in einer späteren Phase dann auch gerade bei den monastischen Bestrebungen ist das ja recht deutlich. Da bestehen ja offenbar Definitionsunterschiede. Und weiterhin, ganz konkret, wer garantiert nun eigentlich diese letztlich kooperative Natur der Akademie? In Deutschland ist es der Fürst oder vielleicht ein Kloster, in einer gewissen Rechtsform auch der Abt. Wer ist es in Italien? Ja. Nur eine, bitte um Vorsicht mit Begriffen. Ich glaube nicht, dass man den Begriff Korporation im Sinne des römischen Rechtes in dieser Zeit, 17. bis 18. Jahrhundert, so direkt auf die Akademien anwenden darf. Denn wir haben bereits festgestellt, ein wesentlicher doch auch Unterschied zwischen Universitätsentwicklung und Akademieentwicklung von den Ursprüngen her, nicht vom Ende, von den Ursprüngen her besteht darin, dass die Universität als Studium Generale im Sinne der Universitas Korporation war, der Korporationscharakter ausgehöhlt wurde, allmählich durch den Staat. Akademie, wie auch immer, würde ich nicht in diesem Sinne als Korporation bezeichnen, sondern als Società, als Sozietät, als oder eine Anstalt. Oder als Anstalt. Die Akademiebewegung in Deutschland als zu spät gekommene Universitätsbewegung. Ja. Im 13. Jahrhundert wurde noch in einem Staat ohne strenge Eingliederung und aufgrund des Klerikats der Studenten kooperatives Recht zugestanden, erkämpft. Im 17., 18. Jahrhundert kann der Staat keine Kooperation mehr dulden. Ja. Er errichtet einen Verein oder eine Anstalt. Ja. Anstalt. Institut, Staatsanstalt. Allora. Und dann Herr Manzolini. Ja. Ja, aber es ist besser, wenn. Es ist besser, wenn, ja. Allora, arrivo rapidamente. Professor Rocca ha cercato di arrivare a una tipologia sommando insieme certe considerazioni della relazione Ziegler e della relazione Pecorella e si fermava per un momento alla situazione tedesca osservando proprio da una parte le operazioni di Leibniz, le proposte di Leibniz, i suoi programmi e dall'altra le ipotesi, i programmi tentativi di ordine monastico. Sembrerebbe a questo punto che si potesse dire che tanto in un caso come in un altro, nel caso della, nella realtà tedesca, sorgono sempre difficoltà estremamente gravi alla realizzazione che dipendono da una parte da un principio di tolleranza che sia in un caso che nell'altro con diverse componenti resta sempre carente e in secondo luogo dal problema giuridico di una legittimazione all'interno di una situazione già data. Partendo proprio di qui, riferendosi a questo punto alla realtà italiana, una volta stabilita l'idea che si può dare, si può accettare l'ipotesi dell'Accademia come non solo Stato nello Stato, non solo, ma Stato contro lo Stato in quanto spazio libero, viene da chiedersi se tutta questa possibilità non si debba dichiarare assente nel mondo tedesco. E allora nasce la domanda: che cosa è allora in questa diversità così profonda l'Accademia? E nasce quindi la necessità di una differenziazione d'ordine definitorio e in secondo luogo chi garantisce posto che si debba parlare poi di corporazione e comunque di insieme, chi garantisce questo spazio libero e lo rende anche efficace e forse da questo punto di vista, se efficace, pericoloso. Siccome avevo poca carta, bisogna che guardi dove ho continuato il mio riassunto. Mi pare che finisse così e la professoressa Böhm è intervenuta dicendo prudenza nell'uso di questi concetti, il termine di corporazione è oramai difficile e quasi impossibile in un periodo come quello che stiamo considerando 1600-1700, diverso è già accertato lo sviluppo dell'università e dell'accademia non a partire dalla fine ma dalla origine. L'università è sì era una corporazione come universitas, ma l'accademia, per l'accademia questo termine non sembra proponibile, si dovrà piuttosto usare il termine di societas, cioè di Verein, e poiché non è più possibile questa dizione, ricorriamo allora, ed entriamo in un altro ordine di idee, all'idea di Anstalt, e qui il professor Dickerhoff ricordava, è troppo tardi per poter fare l'uso di un certo termine. Nel mondo medievale, in un'organizzazione assai meno rigida, tenuto conto anche del clericato studentesco, è possibile usare certe nozioni. Con uno Stato che non sopporta più certe possibilità, quella nozione evidentemente non è più propria. Io capisco. Risposta a quello che avevo capito io, ma la mia conoscenza del tedesco mi rende esitante, perché dovrei dire la mia non conoscenza. Allora, per corporazione noi intendiamo l'associazione volontaria o coatta, associazione volontaria o coatta di tutti coloro che esercitano la stessa attività professionale. Ed è una definizione che parte dal neopreziano e che, ahimè, credo che sia ancora presente nel mondo moderno, nel mondo contemporaneo, almeno quello italiano c'è, purtroppo. Con l'aggiunta che neopreziano, come contropartita dell'obbligo di stare entro questa limitazione, aveva garantito il monopolio della professione medesima. Ed è questo l'aspetto più negativo dell'ordinamento corporativo che fu di ostacolo al potere dello Stato assoluto, ma anche allo sviluppo dell'economia e proprio alle soppressioni. Io avevo parlato di corporazione con riferimento alla ipotesi di Leibniz di un'accademia designata da un principe alla quale è possibile ipotizzare che spetti il monopolio di una certa attività. E per il fatto che il principe ha voluto che certe persone studino certi problemi, sia de facto, se non de iure, inibito agli altri di occuparsi di queste cose. E l'inibizione è facile, non piatto soldi e molte più attività si ferma e non se ne parla più. Yeah. Un altro problema però, secondo, quando si parla di corporazione, quando si parla di corporazione si fa riferimento a un mondo in cui l'equilibrio delle forze è diverso da quello attuale ed è, come dicevamo prima, diverso dall'Italia alla Germania. Perché se dovessi, ma non pratico, della storia tedesca, trovare la differenza, la troverei molto rapidamente. Adagio. L'Italia ha pochi stati assoluti che hanno un vasto territorio. Pensiamo al Regno di Napoli. La Germania ha una pluralità di stati assoluti piccoli. Di conseguenza, quella operazione di creare gente fuori dello Stato a Rossano Calabro è possibile, perché il governo centrale è lontano. Forse a Monaco di Baviera non è altrettanto possibile, perché il governo lì, che non ha molta simpatia, o può non averla, per questo tipo di cose. Ed è qui la staccatura sostanziale, perché la Germania, se non ricordo male, è un insieme di principati indipendenti numericamente grossi, ma territorialmente non sono grossi. Ma c'è Russia. Per ordine, no, le Ergänzungen vanno in ordine. Non ho ancora finito. Per favore. Differenza, però io mi trovo c'è anche un'altra differenza essenziale, ed è che l'Italia è un territorio di antica colonizzazione romana che ha una naturalità enorme di centralitati. E questa è l'osservazione che abitualmente si fa. Ci sono moltissime accademie perché i centralità, anche piccoli, sono un numero infinito. Non credo che la Germania sia così ricca in quel momento di piccoli centri abitanti con la loro vita cittadina. Ma quindi sapete tutti che i tedeschi siete voi, io sono italiano. Haben Sie es verstanden? Ich meine, es waren zwei. Es, gut, und Sie geben direkt darauf Antwort. Zwei Punkte. Ich wollte Ihnen sagen, dass nicht allein natürlich der Unterschied zwischen Italien und Deutschland. Wo in Deutschland eben 1000 Territorien sind, in Italien nur geringe, mit weniger viele Territorien. Andere Staaten, Struktur auch. Eine andere Struktur besteht, sondern das, was ich auch in meiner Frage in der Präliminarien gesagt habe, dass eben in Italien eine ganz andere städtische Kultur besteht, in der dann zum altro tipo della cultura cittadina, dove può nascere questo tipo dell'Accademia piccola, cercoli piccoli degli intellettuali, degli uomini di lettere che possono parlare, non hanno bisogno di un privilegio. Und dass da zwischen diesem Typ der Akademie, der von Grundam sehr häufig zitiert wurde, und dem jetzt, wo wir uns wirklich natürlich sehr genau unterhalten müssen, waren das Korporationen, hatten sie Privilegien oder inwieweit waren sie nur Vereine, zwischen diesem einen Typ des intellektuellen Clubs und unserem Typ von Universität, der mit juristischen Kategorien vorwiegend und weniger mit soziologischen Kategorien zu fassen ist, dass da ein großer Unterschied besteht und dass dieser Typ von Akademie bei uns vielleicht einfach nicht Akademie heißen würde. Darf ich nur etwas sagen? Herr Kollege Raimondi muss in 10 Minuten uns verlassen. Ich möchte, die Diskussion kann weitergehen, bevor Herr Raimondi geht, möchte ich doch einiges zum Schluss sagen. Ist das jetzt oder in 5 Minuten? Nach 5 Minuten. Dann Herr Mazzolini.